Anche quest'anno, come tutti gli anni, l'Accademia di Belle Arti, in occasione di Art City, apre le sue porte alla città e gli studenti e le studentesse intrecciano le loro conoscenze, i loro saperi con le tante attività proposte da istituzioni e da gallerie, in modo quasi di definire una sorta di laboratorio di esperienze che si estende su tutto il territorio. Devo dire che ABAVO Art Week è una grande festa dell'arte, ma è anche un importante momento formativo e per gli studenti. E diciamo che le proposte sono tante. E iniziamo con quella che è l'Art Talk City, che è questo cinclo di incontri che invita i protagonisti, gli artisti, i protagonisti di Art City, che è fatto anche in collaborazione chiaramente con tutta l'attività di Art City. Questo cinclo di incontri, dicevo, che ha avuto un grande successo e quindi cominciamo dal 1 di febbraio fino al 4 ogni giorno, dalle 10 alle 11. Sono tanti gli artisti, c'è cioè Greta Scholl, Ludovica Carbotto, Virgilio Sieni e Luca Monterestelli. Quindi è un'occasione anche questa per gli studenti per conoscere le pratiche, le poetiche di artisti importanti dell'arte contemporanea. E poi un'altra cosa per noi molto significativa è questo spazio che abbiamo ad Arte Fiera, uno spazio che accoglie gli studenti del biennio di arti visive e di fotografia, uno spazio questa volta curato da una nostra docente che è Marinella Paderni. È una bella occasione per gli studenti per fare, come dire, un primo passo verso la loro carriera artistica e l'incontro anche col mercato. Invece per il sabato, per la notte bianca, l'Accademia ha deciso di dare voce a quelle donne che sono state zittite per sempre dalla violenza. E quindi utilizzare l'arte per esprimere il nostro impegno contro il femminicidio e anche per sensibilizzare il pubblico della grande festa dell'arte su questo dramma. Quindi avremo proprio in accademia, nell'aula magna dell'accademia, una serie di letture prese dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte, e ci sarà un'introduzione però importante di Alessandro Bergonzoni, che ha scritto proprio un testo che leggerà e le altre si successive, come dire, alterneranno varie letture fatte da personaggi anche pubblici relativi, non so, alla cultura della città oppure alla politica, e come, non so, Elena Di Gioia, e che hanno deciso di collaborare con noi e quindi partecipare insieme alla grande, come dire, collettività accademica, perché insieme a loro ci saranno, appunto, leggeranno i professori, le professoresse, gli studenti e le studentesse. Quindi un momento per noi molto importante e significativo. Ci saranno tre repliche, una alle 21, una alle 22, un'altra alle 23, quindi fino a mezzanotte. Un altro appuntamento importante è quello, invece, ormai che è arrivato alla nona edizione, quello di una giornata di studi dedicato al restauro del contemporaneo. Questo è anche un appuntamento che richiama, devo dire, restauratori e studiosi da tutta Italia, insomma ormai è noto, è conosciuto. Poi ci sono tantissime altre attività in cui all'esterno, a Babbo On, che vedono per la partecipazione dei nostri studenti, dei professori, su tutta, appunto, come dicevo prima, su tutto il territorio, anche perché quest'anno, a differenza degli altri anni, non abbiamo potuto organizzare la mostra al nostro interno perché stiamo facendo degli importanti lavori di ristrutturazione, quindi ci mancano proprio gli spazi. E però i ragazzi e gli studenti, appunto, partecipano a tante cose. Ci sono anche soprattutto a questa performance di Virgilio Sieni che farà al Comunale e che ha visto i ragazzi impegnati appunto nella preparazione in un workshop dove hanno partecipato addirittura 50, credo quasi 60 veramente dei nostri studenti, da cui sono stati poi selezionati 18 per fare proprio quella, come dire, quella che si presenterà al Teatro Comunale dall'1 di febbraio. Così altre partecipazioni sono per esempio anche alla performance che faranno sempre gli studenti e le studentesse, una ripetizione, una ripresentazione della performance di Greta Scholl che fece nel 1970 in Piazza Maggiore e così verrà ripetuta, verrà data vita a a questo evento proprio grazie agli studenti e alle studentesse dell'Accademia di Belle Arti. Ci saranno anche altre mostre, una mostra per esempio a Palazzo Malvezzi del biennio di decorazione per l'architettura curata da Vanna Romualdi, anche questa in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina, una collaborazione che abbiamo ormai da tanti anni, e insomma poi tanti altri eventi, spero, cioè, è difficile raccontarli tutti perché sono veramente tanti, ma il mio ringraziamento va appunto all'attività di tutti gli studenti, di tutte le studentesse, dei professori e chiaramente tutti quelli che hanno contribuito alla Babbo Art Week.